bello e buonissimo, c'è niente da fare, è proprio buono. La mortadella è comunista, salame socialista, prosciutto democristiano, la coppa liberale, le salsicce repubblicane, prosciutto cotto e fascista. I radicali? Cosa? I radicali. Cosa? I radicali nel gioco del salame e del... Che cosa? I radicali nel gioco di prima. Ma che cosa? I radicali nel gioco degli insaccati. Ma che cosa? Ma va, va, va, non si può dire mai niente con te. Fuoco alle polveri. Go hell and Paul Berry. Radio Bomba. This is Radio Bomba. E buonasera, buonasera a tutti e benvenuti alla 49esima puntata di Fuoco alle Polveri qui su Radio Wombat. Buonasera. Do il benvenuto a tutti. Ciao. Ciao, ciao a tutti. Ciao Cap, ciao Dlago. Ciao Grippo e ciao, in pole Wombat, position il nostro Bricobaldo. E voilà. Oggi in pole position proprio per portarci un'intervista. Super intervista. Super interviste. Super interviste. Al plurale. Interviste due saranno. Al sì. Plurale, veramente. Non grandi fatto... ospiti, grandi ospiti su Fuoco alle Polveri. Grandi ospiti, sì. Ah, tutto a posto? Allora, io tutto a posto. Allora, che ci racconti? La volta scorsa sono arrivato in ritardo, quindi non sono riuscito a dirvi il 48. No, ci sei mancato un sacco, infatti. E era sempre sul 48 e c'era una... Il casino. Dovrei ricercarlo, era magari 48. Dopo... Vabbè, sì, bene. Ma c'era una cosa particolare per cui in realtà il dire è un 48, cioè è successo un bordello, avrebbe delle... discendenze, come modo di dire, più vecchie del 48. Del 48 stesso, okay. Dell'Ottocento. Ma comunque invece oggi parliamo del 49. Come sapete tutti ormai, nostri fedeli ascoltatori, quando non sappiamo cosa dire ci rifacciamo alla storia dell'antica Roma. E infatti oggi è proprio così. 49, come il 49 avanti Cristo, anno in cui il Giulio Cesare passa il Rubicone armato con le proprie... la propria legione, che non si poteva, no? Ricordo che il Rubicone era quella linea, il limite per cui non ci si poteva avvicinare alla capitale se non disarmati. Quindi Cesare rompe questa regola e ci fu la famosa frase Alea iacta est, il dado è tratto, che tutt'oggi viene usata. Quindi insomma dai. Oggi è andata meglio rispetto a si sposa la principessa Sì, ci sono stati alcuni bellissimi. Molto bene, sollazziamoci direi immediatamente con un ottimo pezzaccio, dopodiché si parte. Wombat, vai. Thought that you knew it all. Well, you've seen it 10 times before. I thought that you had it down with both your feet on the ground. I love slow but deep and affection wash over me. Eccoci, rieccoci qua. Ci siamo. Ci siamo. Allora, annunciavamo con fanfare e trombe una grande intervista. Sì, è un argomento che abbiamo già introdotto settimana scorsa. Verissimo. Abbiamo letto il comunicato del Comitato degli Inquilini Via dei Pepi, della questione di Via dei Pepi spinosa, direi. Abbiamo qua con noi un abitante di Via dei Pepi, Giuseppe, che è qui in diretta, è venuto a trovarci per raccontarci un po' cosa sta succedendo. Ciao. Ciao. Benvenuto. Benvenuto. È un piacere averti. Allora, abbiamo visto, quando era venerdì, appunto abbiamo letto il comunicato lunedì, per il presidio che si è svolto venerdì pomeriggio in Via dei Pepi, e dove con una buona partecipazione, è stato molto piacevole, è stato molto bello. il presidio che è stato fatto in vista dell'udienza del TAR che avverrà mercoledì, giusto? Mercoledì 17. Sì, mercoledì 17. L'udienza del TAR che deciderà in merito alla questione. Senza entrare nel merito della questione, ma deciderà il TAR, se non erro, valuta se tutte le procedure sono state svolte nel modo corretto. E, bene, sei qua per spiegarci un attimino dettagliatamente quello che è successo e quello che sta succedendo. La prima cosa che volevo chiederti è riguardo all'edilizia residenziale pubblica, la cosiddetta ERP. Quindi dei quali fanno parte gli edifici adibiti a case popolari, no? Visto che è una cosa complessa, volevo come prima cosa chiederti come è normata, cioè quali sono le leggi che vanno a regolamentare queste abitazioni, l'utilizzo di queste abitazioni e l'assegnazione di queste abitazioni. Quindi quali sono e che cosa prevedono? Allora, l'edilizia residenziale pubblica è normata dalla legge regionale. Dopo il riparto delle competenze tra Stato e Regioni, la gestione è demandata alle Regioni. La Regione Toscana ha fatto una legge nel 96, la legge 96 del 1996, che regola la materia. Questa legge poi ha avuto delle modifiche, l'ultima è stata quella fatta dall'assessore Saccardi, ma sostanzialmente è quella la legge che regola la gestione. Poi c'è un'altra legge che regola la vendita delle case. Lì la questione è un po' più complessa perché in un primo momento le regioni hanno legiferato in materia, ma dopo il decreto Lupi c'è stata una conferenza Stato-Regione perché c'era sempre una questione, un conflitto di competenze e in sede di conferenza unificata, quindi diciamo ha tagliato la testa al toro, la competenza in materia della vendita è stata ridata completamente allo Stato, per cui la legge regionale, la legge 5 del 2014 fatta dalla Saccardi, vale solo per le procedure in atto, poi è la legge nazionale che decide in materia. Rispetto all'ERP c'è veramente tanta confusione, materia complessa, io non vorrei, mi scuso con gli spettatori perché sono cose anche noiose. Purtroppo di questa noia, il fatto che appunto sono cose noiose, i nostri amministratori se ne approfittano perché poi la gente non riesce. Guarda, io sto venendo adesso dal Consiglio Comunale dove c'è stata un'interrogazione fatta da Miriam Amato in seguito alle dichiarazioni del sindaco che dice di voler fare nella caserma, quella di Piazza Stazione, di Piazza Santa Maria Novella, anche degli alloggi di housing sociale, e quindi la consigliera Amato chiedeva cosa intendeva per housing sociale, se erano previste degli interventi di edilizia residenziale pubblica, e l'assessore Perra ha dato una risposta che veramente fa specie detta da un amministratore, fa specie detta da chi le cose le dovrebbe sapere. Ha detto no, edilizia pubblica non si può fare perché quella si fa solo con i fondi ERP, che è una cosa assolutamente falsa. L'edilizia residenziale pubblica è tutta l'edilizia che è sovvenzionata con i soldi di Stato, Regioni, enti locali, quindi un amministratore locale virtuoso dovrebbe riuscire a reperire fondi anche al di fuori di quelli dati dallo Stato e dalle Regioni, cioè il Comune potrebbe anche mettere una parte dei fondi del bilancio a disposizione dell'edilizia residenziale pubblica, può farlo, non c'è nessun impedimento di legge per fare questo. Loro invece si nascondono dietro a questa cosa, anche appunto facendo leva sul fatto che è materia complessa, e danno indicazioni sbagliate e a supporto poi di quelle indicazioni, di quelle operazioni che hanno poco di pubblico e molto di privato, quindi dare in gestione patrimonio pubblico ingente, quindi le vecchie caserme, ma tante altre strutture pubbliche in mano ai privati nei fondi di investimento, quello che hanno fatto praticamente con l'operazione che interessa sia Via dei Pepi sia altri 61 alloggi che li hanno dati in gestione a un fondo immobiliare che poi lo ridà ad altri fondi immobiliari per la valorizzazione. Per esempio il fondo Invimit a Treviso, uno stabile del centro storico, l'ha dato in gestione ad un'altra società per fare dei bed and breakfast di lusso. Questo probabilmente è la sorte che hanno già in mente per Via dei Pepi. Ecco, ma se le normative dicono che questi alloggi non possono essere venduti, ma sono specificatamente dedicati all'edilizia popolare, come si giustifica il comune nel tentativo di vendita di questi immobili? Nella maniera più semplice dal loro punto di vista, dicendo che non, sono, che non è edilizia residenziale pubblica. Infatti il TAR dovrà esprimersi su questo quesito, se gli immobili dei Vede Pepi sono edilizia residenziale pubblica o non sono edilizia residenziale pubblica. Da questa decisione dipende la sorte di Via dei Pepi praticamente. Il Consiglio Comunale ha approvato una delibera in cui ha dato il via libera alla vendita, hanno già fatto il rogito notarile, compreso Via dei Pepi, però con una clausola che se il TAR dà torto all'amministrazione e ragione a me che sono il ricorrente, non solo il mio appartamento sul quale il TAR può decidere, ha già dato la sospensiva, ma anche gli altri 14 appartamenti, siccome chiaramente se è ERP il mio sarà ERP anche l'appartamento accanto, tutti e 14 gli appartamenti di Vede Pepi saranno levati dal piano di vendita. Ecco, quindi di fatto sembra, se, cioè, per come la metti te, sembra abbastanza chiara la questione, però la questione, cioè, e quindi ci si può anche immaginare una certa risposta da parte del TAR. Comunque voi avete dei grossi dubbi. Da dove vengono fuori questi dubbi? No, non è che ci sono dubbi, diciamo, da un punto di vista normativo, io penso, altrimenti io questo ricorso l'ho fatto a mie spese, sapete benissimo quanto costa un ricorso al TAR, l'ho fatto sapendo di aver ragione e fiducioso sul fatto che il TAR mi dia ragione su questo punto, perché l'interpretazione del Comune è carente, da un punto, loro praticamente sostengono che edilizia residenziale pubblica solo l'edilizia, gli appartamenti che sono stati costruiti con i soldi, con i fondi dell'edilizia residenziale pubblica. In realtà non è così, ci sono state già altre sentenze del TAR che i due elementi fondamentali per definire un immobile come ERP o come non ERP è il fatto che ci deve essere una manifestazione di volontà di adibirlo per fronteggiare l'emergenza abitativa, due, che ci sia un effettivo utilizzo. Questi due elementi ci sono tutti e due su Via dei Pepi, cioè io quando sono entrato in quella casa sono entrato dopo aver fatto un bando pubblico, quindi un bando dell'ERP, quindi il comune mi ha dato quella casa sapendo di dare, di utilizzarla per edilizia residenziale pubblica. E la legge regionale, la 560, la delibera CIPE, la stessa legge regionale individuano come soggetti all'edilizia residenziale pubblica tutti quegli immobili costruiti o recuperati con i fondi di Stato, Comune, Regione, enti pubblici, per cui cioè, gli elementi ci sono tutti praticamente. Ecco sì, ma cioè, quello che volevo chiederti è un po', cioè, se queste cose sono chiare, come mai il comune si comporta così? Cioè, come pensa di riuscire a sfangarla, passami il termine, e a venderli, se le leggi sono chiare e di fatto la situazione anche è chiara, cioè che quelle case, quegli immobili non possono essere venduti? Cioè, di fatto stanno andando contro la legge? Sì, di fatto stanno andando contro la legge. Allora, la differenza è quella. Il comune può anche avere degli immobili dati, immobili ad uso abitativo, solo che non può usare lo strumento dell'assegnazione, quindi uno strumento di natura pubblicistica, cioè fare un bando, fare eccetera. Può usare gli strumenti un negozio privato. Quindi se il comune avesse affittato queste case con il 4 più 4, con la 431, i contratti d'affitto normali che usano i privati, cioè il comune, se è patrimonio disponibile, è come un privato cittadino che è proprietario di un appartamento, quindi se li vuole utilizzare in quel modo avrebbe dovuto utilizzare contratti di natura privatistica, in realtà ha usato contratti di natura pubblicistica, quindi ha usato le assegnazioni, alla gente gli ha fatto fare i bandi, li ha regolarizzati, quindi è nel novero, cioè sta utilizzando quegli immobili per un servizio pubblico. C'è anche il codice civile che dice questo. Il codice civile dice che tutti gli immobili utilizzati per servizio pubblico fanno parte del patrimonio indisponibile e possono essere venduti solo con leggi speciali. La legge speciale dell'edilizia residenziale pubblica è la legge 5 per quella regionale, la legge 5 per le operazioni che sono in corso, e la 560 che è una legge nazionale per quelle che dovranno esserci da qui in poi. Quindi è scontato secondo te il risultato? Allora, secondo me è abbastanza scontato, solo che purtroppo ci sono dei giudici, ogni tanto ci sono anche delle sentenze che lasciano l'amaro in bocca, però diciamo io sono abbastanza fiducioso rispetto a questo. Oltretutto, appunto, contando sul fatto che la gente non va in materia ostica, ogni tanto anche gli amministratori fanno qualche leggerezza non si preoccupano di nascondere la verità, diciamo, ecco, perché poi non hanno fatto niente di strano, hanno semplicemente detto gli è scappato di dire la verità. Oggi in consiglio comunale il consigliere Grassi ha presentato un'altra, ieri è uscito un articolo su un quotidiano online e sulla base di quell'articolo il consigliere Grassi ha presentato un'interrogazione, perché per due inquilini di Via dei Pepi, uno del 39 e uno del 41, dopo che il comune nel 2014 ha detto che quelli erano alloggi che non erano di edilizia residenziale pubblica, ha emesso due determine dirigenziali per regolarizzare la posizione di questi inquilini e in narrativa nella delibera, nel corpo della delibera, ammette candidamente che sono alloggi di edilizia residenziale pubblica, quindi creando un paradosso che chiaramente anche questo pensiamo di poter utilizzare anche nel, certo, di portare ai giudici del TAR. Ecco, allargando un po' lo sguardo sulla città, sai darci le dimensioni dell'emergenza abitativa a Firenze e anche della quantità di alloggi popolari a disposizione? Allora, gli alloggi popolari a disposizione, quelli nell'ambito fiorentino, dovrebbero essere all'incirca 10.000, perché il comune, oltre a quelli che c'aveva di sua proprietà, che erano intorno ai 3.000 al 98, nel 98 il comune ha acquisito anche tutti gli alloggi che erano dell'ex IACP, poi ex ATER, praticamente tutta l'edilizia residenziale pubblica, la vecchia edilizia residenziale pubblica è passata in mano ai comuni. Quindi ci sono 10.000 alloggi di proprietà del comune, insieme ad altri, agli altri dei comuni del circondario dell'area metropolitana, che sono dati tutti in gestione a Casa Spa e sono regolati appunto dalla legge 96-96. Questo come parco alloggi. Rispetto alle dimensioni dell'emergenza abitativa si fa difficile a fare una stima, perché la prima stima che verrebbe da fare ufficiale è quella della gente che ha partecipato al bando. Noi abbiamo visto che con l'ultimo bando c'è stata una diminuzione, cioè i vecchi bandi c'erano sempre 4-5.000 persone che partecipavano ai bandi. L'ultimo bando, che aveva dei criteri molto esclusivi, specialmente per gli immigrati, ma anche per molti italiani, e oltre al fatto che andava fatto solo online, anche questo è stato limitante rispetto a chi doveva fare, comunque sono sempre 3.000 nuclei familiari che hanno presentato domanda. Diciamo che questo va moltiplicato almeno per 3. E in quanti hanno ricevuto un alloggio? E in quanti hanno ricevuto un alloggio da quando è stato fatto il bando non si sa. Mediamente intorno alle 200 persone che riescono all'anno, 200 nuclei familiari che riescono ad avere risposta da parte del comune. Però non sono tutte case popolari. Ci sono anche risposte nelle strutture di prima accoglienza, insomma, soluzioni. La gente non viene lasciata in mezzo alla strada, però non sempre gli viene data una casa per stabile, come dovrebbe essere data, una casa, certo, che riveste anche la caratteristica della stabilità, quindi anche della coesione nel territorio. Cioè, anche questi sono aspetti che uno dovrebbe tener conto. Certo, quando... assolutamente, assolutamente. E fra l'altro con un metodo che con un affitto calmierato vengono assegnati. Sì, anche con l'affitto calmierato. Questa praticamente l'edilizia residenziale pubblica, diciamo, almeno è da 20 anni che si sta cercando di smantellarla completamente. Prima con i piani di vendita, insomma, io sono nei movimenti di lotta per l'abitare fin dal 1977, da quando sono arrivato a Firenze praticamente, quindi mi sono fatto tutte le stagioni di lotta che ci sono state a Firenze sull'emergenza abitativa. Nel 93 c'è stata la 560 che ha destinato alla vendita il 75% del patrimonio abitativo pubblico, e noi l'abbiamo combattuta all'epoca, e da allora ci sono stati anche altri interventi normativi. I 20.000 alloggi in affitto praticamente è stata una misura a livello nazionale per creare, con l'apporto anche dei privati, degli appartamenti ad affitto permanente, che poi permanente non era perché il limite era quello ventennale. E sono stati fatti degli interventi qui a Firenze, dove lo Stato praticamente ha regalato ai privati che costruivano queste cose ha regalato un sacco di soldi, perché il 40% degli interventi erano praticamente interventi a fondo perduto. Poi non pagavano gli oneri concessori, avevano tutta non pagavano l'ICI, non pagavano tutta un'altra serie di bella di, vita di e comunque gli affitti calmierati erano calmierati, per modo di dire. Noi adesso qui a Firenze ci troviamo degli affitti calmierati con della gente in morosità sugli affitti calmierati, perché sono affitti che sono all'incirca intorno ai 600-700 euro d'appartamento, e non tutte le famiglie ce la fanno a pagare. Senti, per andare nello specifico di Via dei Pepi, Via dei Pepi appunto è praticamente in vicinissima a Piazza dei Ciompi, e sono due stabili, giusto? Due... Sì, sarebbero tre in realtà. Uno è stato venduto nel 2003, meno un appartamento che ci sono stati dei problemi con l'asta quando fecero l'asta. Quindi sono tre stabili, un appartamento in uno stabile, quello che fa proprio angolo con Via Petrapiana, e gli interi due stabili al 39 e al 41. Dicevi 14 appartamenti? Sì, sono 14 appartamenti in totale. E dei quali quanti sono abitati? Attualmente sono abitati 2-3 appartamenti. E mentre tutto il resto? Il resto è vuoto, è stato svuotato, però era abitato fino a dicembre dell'anno scorso. A dicembre dell'anno scorso il comune ha trasferito gli inquilini, la maggior parte di questi li ha messi in Viale Giannotti, nella nuova costruzione dove c'era il vecchio CPA, per intenderci, e niente, ha levato case ad altri sfrattati, cioè quelli erano appartamenti che erano stati costruiti per dare una risposta abitativa a chi erano alle graduatorie delle case popolari o per l'emergenza a chi veniva sfrattato. Oltretutto anche lì hanno fatto una forzatura di legge, anche quelle sono cose che la gente di solito non sa, le sanno gli addetti ai lavori e a volte fanno finta di non saperle, perché la legge regionale dice che sugli alloggi di nuova costruzione massimo il 20% può essere utilizzato per la mobilità degli inquilini, l'80% devono essere nuove assegnazioni, quindi prese o dalle liste o dell'emergenza o dalla lista ordinaria delle... Anche in questo caso hanno bypassato questo dettato di legge e siccome a loro gli serviva liberare gli appartamenti per venderli, hanno messo gli inquilini di Via dei Pepi. Però sono appartamenti che sono stati veramente rubati agli sfrattati. Ecco, e gli appartamenti di Via dei Pepi a chi vengono venduti? Vorrebbero venderli? No, che l'hanno già fatto, hanno già fatto il rogito notarile, sì. E un fondo immobiliare del Ministero del Tesoro, del MEF, un fondo immobiliare che è un fondo chiuso. Questo significa che prima dei 20 anni di scadenza del fondo te non puoi vendere le tue quote. Solamente un terzo della stima fatta di questi appartamenti gli viene dato al comune sotto forma di soldi, quindi è stata stimata 13 milioni e mezzo di euro tutto il pacchetto dei 61 alloggi, 4 milioni glieli danno cash, il resto se va bene tra 20 anni. Tra l'altro nella stessa brochure informativa data dall'Invimit si legge, ci sono le avvertenze, lo devono far per legge, lo impone la Consob, lo impongono tutti questi come in qualsiasi altro investimento, e quindi gli dice questo è un fondo a rischio, cioè non è detto che ci sia né redditività e nemmeno viene garantito la liquidazione del capitale conferito. Per cui, se tutto va bene, tra 20 anni si vedono gli altri 9 milioni. Ma se il fondo ha delle performance non eccellenti, ci sta anche che quei soldi il comune li possa perdere. Quindi di fatto sono stati venduti questi appartamenti per una cifra unitaria di? 13 milioni e 500 mila. 13 milioni e mezzo di euro. Riscossi che tra 4 milioni che tra l'altro 14. Sembra una cosa così, noi l'abbiamo detto prima di tutte queste cose, quindi è 2 anni che si dice questa roba qui, è lo stesso importo del buco di bilancio che viene imputato sempre dal MEF alla Giunta Nardella. Preciso. Ecco, infatti quei 4/13 milioni dove dovrebbero andare? Allora, questi milioni, loro dicono, sono state fatte diverse dichiarazioni da parte di Nardella, riportate sui giornali, in uno diceva verranno fatte strade e scuole, nell'altro diceva verranno fatte grandi opere, in realtà niente di tutto questo, perché questo tipo di conferimento fatto ai fondi immobiliari risponde, cioè è normato da una legge, che è la legge per la riduzione del debito pubblico, cioè praticamente con una finanziaria. Te non puoi dare destinazione a questi fondi, quindi il Consiglio Comunale approva, cioè se te vendi una qualsiasi altra, se il Comune vende un qualsiasi altro immobile, non dandolo al fondo, devi indicare quando lo vende in quale capitolo di bilancio va a fare. Per esempio non possono essere messi nella spesa corrente, devono essere spesi per investimenti. In questo caso né una cosa né l'altra, vanno a riduzione del debito pubblico, quindi vanno a tappare i buchi di bilancio. Quindi il Comune non vedrà... un euro di tutti non vedrei un euro praticamente, sì. né di quelli che di fatto prende cash, né non di può quelli... decidere come spenderli. Beh, grandi. Senti, ma e, le conseguenze per gli abitanti, cioè per voi inquilini, quelli... Allora, per noi immaginare. Inquilini, diciamo, per me, per gli inquilini che sono rimasti, quelli che continuiamo a stare in quegli appartamenti, chiaramente dipende tutto da cosa decide il TAR e poi da cosa deciderà il comune, sia in un caso sia nell'altro, perché comunque su quegli stabili una destinazione va data, non possono essere lasciati vuoti quegli appartamenti lì. Quindi poi si riapre un'altra partita, si riapre comunque sia che il TAR dia ragione agli inquilini o che dia ragione al comune. E gli altri inquilini sono già via, quindi stanno già in altri appartamenti. Ecco, si può immaginare una destinazione in una vendita al fondo Invimit? Si può immaginare una destinazione di questi appartamenti? No, l'ho detto prima, io ho guardato facendo un giro in internet, appunto c'era lì a Treviso un bed and breakfast, siamo a 100 passi dal Duomo, 100 passi da Santa Croce. No, certo. Turismo. Cosa vuoi che ci facciano? Cioè, fanno cose del genere? Sì, sì, no, era un po' una domanda retorica, perché visto che la cosa l'abbiamo già affrontata. No, ma poi oltretutto risponde proprio perché chiaramente lo scopo di questi fondi è quello di dare la massima valorizzazione. Certo. Cioè loro di pubblico oramai non c'hanno assolutamente niente più, cioè queste sono società per azioni e quindi devono proprio per statuto, devono puntare a massimizzare il profitto, per cui la cosa che massimizza di più il profitto è quella. Certo, e, il turismo massiccio. Insomma, una struttura ricettivo alberghiera. Quindi possiamo immaginare anche le conseguenze per il quartiere per il quartiere e anche che cozza con tutte le dichiarazioni che vengono fatte, no, sul riportare la residenza nel centro storico. Questo è stato fatto esattamente l'operazione opposta. Bene. E quindi si può immaginare che ancora più turismo, ancora più luoghi dedicati a questo, i cittadini vengono praticamente espulsi dal centro della città. Di conseguenza anche l'indotto. Di conseguenza, certo, certo. E poi tutta la questione degli affitti che sono aumentati tantissimo a Firenze proprio per questi motivi qua. Senti, ma ci sono dei precedenti su Via dei Pepi? Sì, precedente che la stessa operazione avevamo provato a farla nel 2003, sempre con le stesse motivazioni, che siccome non erano stati utilizzati i fondi ERP, quelli li consideravano patrimonio disponibile e quindi li potevano vendere. Nel 2003 gli è andata male perché con la modalità di vendita che era quella dell'asta, quindi non la vendita a un fondo immobiliare, gli inquilini sono rimasti fino all'ultimo e siamo riusciti a fare una mobilitazione. Il giorno che dovevano venire i geometri a fare le misurazioni per fare la stima per l'asta, li abbiamo fatto trovare sotto casa centinaia di persone. Il giorno dopo l'assessore alla casa dell'epoca, che era Tealbini, ci convocò in Palazzo Vecchio e ci disse praticamente: beh, se non volevate che li vendessimo potevate dirci, bastava dirlo, tipo... E li levarono non fecero l'asta, la fecero per tutti gli altri appartamenti. Teniamo conto che il comune nel bilancio, diciamo, nel 1993, quando, ecco, anche questa è un'altra cosa importante rispetto a ERP o non ERP. Nel 93, quando fu fatta la 560, quello per la vendita degli appartamenti del patrimonio edilizia residenziale pubblica, i comuni dovevano fare un censimento di quello che era il loro patrimonio edilizia residenziale pubblica. E il comune fece una delibera dove diceva che dei 3.900 appartamenti del vecchio patrimonio che aveva, solamente 300 li escludeva dall'edilizia residenziale pubblica, escludeva solo quelli che erano in categoria A1 o in A7, quindi gli appartamenti signorili e i villini, escludeva quelli che erano in aree di servizio perché potevano essere utilizzati per scopi istituzionali, e levava quelli dati in concessione, e il resto era tutta edilizia residenziale pubblica, quindi 3.600 appartamenti erano edilizia residenziale pubblica e di questi il 75% era destinato alla vendita, il 25% ha levato tutti quelli del centro storico perché avevano la legge prevedeva un sistema di vendita, il calcolo del prezzo sulla base della tipologia catastale e siccome il rapporto tra il prezzo reale di mercato e quello che veniva dalla tipologia catastale era sfavorevole, tutti quelli del centro storico furono levati dal piano di vendita, però li vincolarono, anzi con un vincolo ancora maggiore, perché erano quelli inalienabili, perché non li potevi proprio vendere. Quindi c'è anche questo precedente rispetto alla, al fatto che erano ERP o non ERP. Anche di questo era una delle motivazioni che abbiamo presentato a giudici. Fa parte della documentazione presentata ai giudici del TAR. Ecco, se praticamente comunque hai fatto un ricorso te in prima persona, ecco... Sì, sì, l'ho fatto in prima persona, ma perché non c'è altra possibilità. Quindi o c'è un altro ente pubblico che fa il ricorso, però lo fa nei tempi quando abbiamo fatto la delibera e tutta, e se no è il singolo cittadino che nel momento in cui l'atto generale gli viene notificato e quindi c'è un effetto concreto, ricorre sull'effetto che ha direttamente lui. Quindi a me, quando mi è arrivata la comunicazione che mi sarei dovuto spostare perché lo dovevano vendere, ho fatto ricorso su questo. Ma è un ricorso soggettivo e i giudici si esprimeranno sul ricorso soggettivo. Però il Comune ha già preso l'impegno, l'ha detto l'assessore in commissione urbanistica, che in caso il TAR mi dia ragione, anche gli altri 14 appartamenti verranno levati dal piano di vendita. Ecco, ma questa cosa, questa procedura, diciamo, questa operazione riguarda solamente Via dei Pepi oppure ci sono altri appartamenti nel centro che stanno subendo le stesse... No, ci sono altri appartamenti nel centro, per esempio c'è Via del Leone che sta subendo lo stesso, che è sempre nel piano di vendita. Ci sono altre incongruenze, per esempio, come oltre al vincolo, quello dato dall'edilizia residenziale pubblica, c'è anche un altro vincolo che hanno le case di Via del Romito. Ci sono altri appartamenti che stanno in Via del Romito che derivano da una vecchia IPAB, un'IPAB disciolta. Le IPAB erano gli istituti di assistenza e beneficenza, che sono stati disciolti e il patrimonio è stato devoluto al Comune. Ma nella delibera regionale che dispone appunto il trasferimento del patrimonio da questa IPAB disciolta, l'IPAB San Giovanni, al Comune di Firenze, c'è un vincolo di destinazione per cui i proventi della vendita dovrebbero essere inseriti in capitoli di bilancio destinati alla spesa sociale, cosa che appunto per le modalità di vendita all'Invimit che vanno a ridurre il debito non è possibile fare, quindi anche questa sarebbe una vendita illegittima perché non si può ottemperare a un preciso dettato di legge. Naturalmente poi, cioè appunto te dicevi, il ricorso è una cosa molto costosa e quindi immagino che non sia proprio alla portata di tutti gli inquilini assegnatari di no, certo, di chiaramente, popolare, uno, cioè... chiaramente uno lo fa se viene buttato fuori di casa, ma nel momento in cui il comune gli ha dato un'altra casa... insomma... Ecco, quando ti dà un'altra casa ci sono degli aiuti? Dovrebbero esserci per legge. Perché se la mobilità è una mobilità, diciamo, forzosa, quindi disposta dal comune, dall'ente proprietario, i costi del trasloco dovrebbero essere sopportati dal comune. In realtà a nessuno degli inquilini è stato dato un euro per questa operazione. Vedi. Senti, ma l'ultima domanda ti voglio fare per capire un attimino la situazione anche a livello dei politici che ci amministrano. Sono tutti d'accordo? Sembrerebbe di sì, perlomeno a vedere dalle votazioni sembrerebbe di sì. Gli unici 4 consiglieri che hanno votato contro sono stati Amato, Trombi, Grassi e Verdi. Quindi 4 di sì, di segni di Firenze riparte a sinistra e Alternativa Libera Miriam Amato, che poi adesso è candidata anche di Potere al Popolo. Ok. Benissimo Giuseppe, direi che sei stato veramente precisissimo esaustivo. E ti facciamo un in bocca al lupo per mercoledì e continueremo a seguire la vostra questione. Quando avrai aggiornamenti noi siamo qua. Bene. Pronti a ascoltarvi. Auguri per la radio. Grazie. Wombat, naturalmente, caro Tuco. Senti un po' le note in sottofondo a staccare. Lo sento. Abbiamo tempo di indignarci ancora di più. Dai, sì, indigniamoci. Io sono molto indignato. Anch'io. È un aiuto, ecco, non mi sento più. Caro tuo, che programma abbiamo? Come andiamo avanti? Come la spanghiamo? Ok. Eccoci qua. Allora, rieccoci qua. dopo questi. Senti là, stava qualcun altro che parlava. Dicevo, KEXP, che era un live tratto da KEXP, che è una radio di Seattle. E abbiamo. Bellissimo. Cosa abbiamo appena sentito? Keep your lips sealed. Ok, keep your lips sealed. Dei The Do. Un duo francese pazzerello. Mischiato a rumori molesti nostri. Sì. È piaciuto questo mix? Allora, intervista veramente puntuale e puntigliosa, nel senso buono. Precisa, esaustiva. Grazie. Cercavo il termine esaustivo, non lo trovavo, quindi ho cercato sinonimi a girassero. Questa è mia mancanza. Bravo. Però molto, molto interessante, anche perché noi avevamo iniziato questo argomento, ma ci mancavano in effetti molte informazioni e ora sono venute fuori. E io sinceramente noto con piacere appunto questa fiducia nella sentenza del TAR. Quindi non siamo abituati alle speranze, sì, no? Speriamo buono. Capito? Cioè, non siamo proprio abituati. Chi visse sperando morì cagando. Giusto. E quindi evviva, vi terremo aggiornati. Vi terremo aggiornati su la questione di Via dei Pepi. Assolutamente, come tutte le altre lotte chiaramente abitative e non nella nostra città. Abbiamo grippo qui sotto l'unica luminaria che ci illumina nella nostra Wombat Caverna. Grotta. I wombat stanno nelle grotte. Non nelle grotte, non vabbè. Stanno nelle buche per terra. Stanno nelle buche per terra. Secondo me ne c'è le grotte fatte di buche per terra. Ok. Va bene. Ma sugli alberi si arrampieranno un po' i wombat. Sono pigri. No. Tirano giù gli alberi piuttosto. Dai, sono roditori, sono grassissimi. Grassissimi. Ma figurati, infatti. Ma secondo me invece vanno nelle mine. Tipo, me ne immagino un po' anche koala. Tipo, io me ne immagino un po' stile talpa. Hai presente Enrico la talpa di Luca Alberti? Io ho come stile di vita quello. Uè, Beppe. Vabbè. Non è male. Vabbè. Si vola alto. E quindi che ascoltiamo adesso? E niente, un cantante che canta con la voce sporchissima. Oh yeah. Non ve lo presenterò. Farò partire direttamente il primo pezzo. Meglio. Oh yeah. Wombat. Arriva, eh. Eccolo, eccolo. Eccolo! Lo starete riconoscendo, immagino, attentissimi e bellissimi radioascoltatori di Fuoco alle Polveri Radio Wombat, il grippo disco della settimana, io sono Grippo, ciao, è dedicato a Tom Waits, di classe 49, di Pomona, Los Angeles, americano vero. Uno dalla voce leggendaria, maledetta, sporca, fumosa, definita da Daniel Darchels, noto critico musicale, come se fosse stata immersa in un tino di whisky, poi appesa ad un affumicatoio per qualche mese e infine portata fuori ed investita con una macchina. Ecco, io non riuscirei a definire meglio la grande vociona che si ritrova il nostro amico Tommaso Aspetta, e quindi lo lascio fare ad altri. Uomo dalle mille idee, cangiante in tutta la sua opera, e in particolare ha avuto un periodo particolarmente creativo a metà degli anni 80. 1983, Swordfish Trombones, 1985, l'album che tratteremo quest'oggi, Rain Dogs, 1987, Frank's Wild Ears. Ecco, questa è la cosiddetta trilogia di Frank, e in particolare il primo e il terzo album della trilogia erano studiati proprio apposta per essere riprodotti in teatro. Infatti ci si ritrova un sacco di pezzi in cui la musica accompagna, fa da tappeto alla voce narrante di Tom Waits. Gli anni 80 non sono certo l'unico periodo florido nella carriera artistica di Tom Waits, un artista capace nel 2002 ad esempio di fare uscire due album nello stesso giorno, Blood Money più Alice. Insomma, stiamo a parlare di un vulcano, di una persona che aveva un sacco di idee e che non si curava granché della commercializzazione del suo prodotto, quanto invece di portare fuori queste idee. Un grandissimo sperimentatore, influentissimo per tutti quanti gli artisti successivi. Grande Tom Waits, insomma. E andiamo adesso invece a parlare specificamente proprio di Rain Dogs, un vero e proprio viaggio di ricerca sonora in cui Tom scuote, storpia, sbatte strumenti convenzionali o non. Sentite anche in sottofondo, questa è Gun Street Girl, la traccia numero 13. Si sentono campanacci, si sentono lamiere, oggetti da carpentiere falegname mischiati a strumenti convenzionali, e tutti quanti in un meraviglioso, studiatissimo marmellatone in cui non si distingue nemmeno dov'è che inizia uno strumento, dov'è che finisce, dov'è che ne inizia un altro. Si distingue soltanto nitidamente la meravigliosa calda voce del nostro adorato Tommaso Aspetta. Per quanto riguarda invece le tematiche del disco, sono tematiche che ritornano in tutta la discografia di Tom Waits. Siamo in atmosfere notturne, stravolte, siamo ancora dentro al tombino dove siamo scivolati con la prima traccia, Underground, di Swordfish Trombones. Si racconta di esistenze ai margini della società, perse in un sogno incubo americano. A far da contrappasso poi a queste canzoni storte e grottesche ci sono invece anche, e questa è una delle grandi abilità di Tom Waits, parole invece dolcissime al miele, parole d'amore meravigliose. Ne andremo a vedere dopo un esempio, ecco, di pezzo d'amore vero. Andiamo però a sentirci il primo pezzo, l'apertura di questo disco, che si intitola Singapore, e Tom Waits qua ci porta su una barca dove il capitano, the captain is one armed dwarf, è un nano con un braccio solo, is throwing dice along the wharf, sta lanciando dei dadi lungo il ponte. In the land of blind, the one-eyed man is king, nella terra dei ciechi l'uomo con un occhio solo è il re. Ecco, quindi niente, immergiamoci in Tom Waits, salpiamo su questa nave e andiamo a Singapore. Ascoltatevi questo bellissimo pezzo, il primo di Rain Dogs, 1985, Tom Waits, Fuoco alle Polveri, Radio Wombat, viva viva, vai! Sentite la pioggia dei Rain Dogs? Rieccomi, cari ascoltatori di Radio Wombat. Vi porto adesso un aneddoto, vi tradurrò qualcosa detto da Tom Waits riguardo alla registrazione di questo disco che è avvenuta in collaborazione con un chitarrista abbastanza famoso che dovreste conoscere, che si chiama Keith Richards, chitarrista storico leggendario dei Rolling Stones. Ecco cos'è che ha detto Tom. C'era qualcosa nel disco Rain Dogs che credevo Keith avrebbe capito. Ho preso un paio di canzoni che credevo avrebbe compreso ed effettivamente così fece. Lui ha una gran voce e porta un grande spirito nello studio. È molto spontaneo, si muove come un qualche animale. Stavo provando a spiegare Big Black Maria, che è il sesto pezzo di Rain Dogs che sentite qui in sottofondo, cari amici. E alla fine ho iniziato a muovermi in un determinato modo. Me lo posso immaginare, bello barcollante, bello Tom Waits live, dai, se avete visto qualche video. E a quel punto Keith Richards disse: oh, perché non hai iniziato facendo così? Ora ho capito di cosa stavi parlando. È come un istinto animale. Ecco, secondo me istinto animale e spontaneità, ecco, sono preponderanti all'interno di questo lavoro di Tom Waits. Un disco veramente acustico e spontaneo, nato in un periodo in cui la maggior parte dei cantanti e degli artisti erano ormai completamente affidati a drum machines, sintetizzatori, strumenti digitali. Ecco, insomma, è bello pensare che questi si siano messi a campionare oggetti che suonano e a interpretare il disco con il movimento in un modo molto sanguigno e molto spontaneo, a mio avviso. Andiamo adesso invece a parlare, come promesso prima, dei pezzi, diciamo, di area sentimentale di Tom Waits. In questo periodo era sentimentalmente molto ispirato, era il periodo di fuoco della storia con Kathleen Brennan, con cui aveva anche scritto Hand on Your Head, un altro pezzo veramente bellissimo che mi sento di consigliare. E andiamo a sentirci un pezzo strappacuore, strappatutto e mega sentimentale, ecco, perché Tom Waits, ecco, si poteva e si può permettere veramente tutto. Questo pezzo si intitola Blind Love, amore cieco, e ce lo andiamo a ascoltare qui e a gustare tutti insieme per Radio Wombat, per Fuoco alle Polveri, e diciamo ancora Wombat Wombat e viva viva. Lasciamo finire Kit e poi si parte. Via. Hotels and whiskey and sad luck days. I don't care if they miss me, I never remember their names. They say if you get far enough away, can't get on the train. Must be blind love, only kind of love is stone blind love. Blind love, only kind of love is stone blind love. Your name, the only way to find you. E rieccoci, Wombats. Spero vi siate strappati il cuore su questo Blind Love. Torniamo invece adesso a parlare della tematica centrale dell'album, gli Urban Dispossessed, cioè gli spossessati urbani, letteralmente. Quest'album è stato ispirato tra l'altro a un documentario di cui Tom Waits ha fatto la colonna sonora dell'84, che si chiamava Streetwise di Martin Bell, un documentario che parlava di Seattle, una città dove secondo i sondaggi il benessere doveva essere diffuso e la disuguaglianza ridotta ai minimi termini, e invece si delineavano situazioni grottesche, come, diciamo, la storia centrale del documentario era una prostituta 14enne la cui madre, alcolista, ne sottovalutava il problema definendo la condizione della figlia soltanto come una fase di passaggio. Andiamo a sentirci invece un canto alle stelle di un vagabondo, di un senza tetto, Anywhere I Lay My Head, l'ultima traccia di Rain Dogs. Ovunque appoggerò la mia testa, quella sarà la mia casa. Bellissimo, viva, e niente, Anywhere I Lay My Head per Radio Wombat, fuoco alle polveri, Wombat! Set the Thames on fire. Now I must come back down. You're laughing in your sleep, boy. I can feel it in my bones. Oh, anywhere I wanna let my io non posso far altro che salutarvi, amici di Fuoco alle Polveri, amici di Radio Wombat, e lasciarvi un bel sottofondo per le vostre chiacchiere. Vi lascio la title track di questo album, ricordiamo Rain Dogs del 1985, questa è Rain Dogs, giusto appunto, del buon Tom Waits, che dice I'm a rain dog too, e anche lui un cane randagio, un cane della pioggia. Viva Fuoco alle Polveri, viva Tom Waits e viva Radio Wombat. Ciao a tutti. Statemi bene, a presto. Beh, grazie a te, assolutamente grazie a te. E tra l'altro notavamo con piacere, notavamo con piacere che appunto 49 anni di nascita Tom Waits, nonché anno di nascita di Bruce Springsteen. Bruce Springsteen. è il boss. Del boss. E la puntata 49, quindi tutto torna, tutto studiato. Sì, ma mica abbiamo fatto a caso, ragazzi. So che sapete, no, tutto scherzando. Assolutamente non casuale. E quindi fantastico, fantastico anche questo sottofondo. Troverete in scaletta poi anche tutti i link se volete ricercare i singoli pezzi. Andiamo avanti con la nostra puntata di questo lunedì. Con cosa andiamo avanti? Con cosa andiamo avanti? Andiamo avanti con una sigla che ci presenterà la prossima rubrica. Siamo curiosi. Vai. Ho visto una bella signorina sul mio bike in punta di pedale. Le signorine sul mobile. In PDP. In PDP. In ma... PDF. No? Qua... Sì, no, in PDP. PDP. In punta di pedale. Non sono venuto in bicicletta oggi, mannaggia. Ho preso l'autobus, ma mi sono pentito perché c'è sempre da aspettarlo. Ma veramente. No, non lo farò mai più. Vabbè, riprenderai la bici. Riprenderò la bici. Giustamente, sì. Fai ogni volta. Allora, vi avevamo annunciato un ospite. Giusto? E chi fu? E chi fu? Abbiamo qua il Michele, che è venuto a trovarci per raccontarci che cosa sta facendo, che cosa ha fatto. Ha rimesso in attività la cicloofficina. Una cicloofficina, la cicloofficina del CPA, che si chiama? La Brugola Rossa. Bellissimo nome. Fantastico. Devo dire. Che di fatto è una cicloofficina storica, vero? Era già attiva... Sì, la cicloofficina è stata diciamo inaugurata, fondata nel 2005 da un gruppo di ragazzi di cui non ne facevo parte, e poi sono stato coinvolto successivamente per partecipare al progetto, che è andato avanti per diciamo 5 anni buoni, dove io diciamo, ho imparato di fatti il mestiere. Infatti poi mi sono staccato e mi sono messo in proprio. Da che sono andato via io, poi ci sono state altre persone che hanno portato avanti la cicloofficina, la Brugola Rossa, fino diciamo in maniera un po' saltuaria, la aprivano, la richiudevano, poi è stata chiusa definitivamente diciamo nel 2013. E ora io insieme ai ragazzi della critica che abbiamo avuto qui qualche tempo fa, fra l'altro, esatto, abbiamo deciso di riaprirla. E niente, abbiamo fatto l'inaugurazione a ottobre, in occasione del compleanno della Massa, il 15. Ricordo, sì, la Massa è arrivata proprio al CPA, perché la Brugola Rossa è in un locale del CPA. Sì, è al secondo piano del CPA. Sì, super attrezzata, cioè veramente un... Devo dire posto magico, io sempre, anche quando era aperta prima... Scusa, al secondo piano vuol dire devo portare la bicicletta per due piani di scale? Esatto, l'ascensore, tranquillo. Per poverino. Guadagnare. È l'unica scomodità, per il resto è bellissima. Cosa particolare è che in questi anni che è stata chiusa, è stata proprio sigillata, però sono rimasti dentro le attrezzature, i pezzi come era prima, quindi non è mai stata completamente smantellata, anche perché i ragazzi del CPA la volevano rimettere e aspettavano appunto il prescelto, il prescelto che coloro che avrebbero da lontano, eh? Esatto. Effettivamente da lontano, perché appunto mi raccontavi poco fa che te per perfezionare il tuo mestiere sei stato diversi anni in un paese dove le biciclette di fatto sono considerate molto di più che qua. Un semplice mezzo di trasporto, esatto. Sono andato ad affinare le mie arti meccaniche. Qual è il paese? Germania. Ah, avrei detto Olanda. Sì, infatti. Non sono da meno, sono ovviamente a livello di Olanda, però i tedeschi pedalano duro. Ah, vedi? Sì, ma scherzi. No, devi stare attento anche in Germania, se metti un piede su una pista ciclabile te lo portano via. Davvero, veramente, è così. Senti, quindi allora aspetta, è aperta? Ah, la cicloofficina è aperta tutti i mercoledì dalle 8 alle 10 di sera, ovviamente poi va spesso a oltranza. E come funziona più che altro la cicloofficina popolare? La cicloofficina popolare funziona così, non è che te porti la bicicletta e ti viene riparata, assolutamente no, praticamente c'è il meccanico, me o chi per me, scusate, che ti insegna a ripararti la bicicletta, che c'è una bella differenza, esatto. Diciamo, segue il principio del dai un pesce a un uomo, lo spammerai per un giorno, insegnagli a pescare lo spagnolo per tutta la vita. Dillo, in dillo, questo caso... dillo. Spirito hacker. Oh, grazie. Sì, c'è qua lo spirito hacker di fuoco alle polveri che ogni tanto viene fuori. È proprio così. E fra ovviamente l'altro... per le cose più difficili poi viene aiutato senza problemi. Certo. Non è che si rimanda a casa a piedi. Certo. Insomma. Beh, uno dei problemi appunto dei ciclisti urbani è intanto sì appunto la competenza nelle riparazioni, ma anche le attrezzature, perché comunque sono, a parte gli attrezzi base che magari si può trovare in una qualsiasi casa, però ci sono anche alcuni attrezzi che non sono proprio banali, ecco, non diciamo sono... le cose che ti capitano, che ti possono capitare lungo il tragitto, la maggior parte le puoi risolvere con dell'attrezzatura che c'è anche da, come dire, da portarsi dietro, tipo chiave a brugole oppure delle chiavi, mentre per altre effettivamente servono delle attrezzature specifiche che ci sono soltanto in officina, però si parla di cose estreme, ecco, diciamo. Vabbè, già un estrattore, una chiave per i raggi, ecco, sono diciamo cose che, ecco, io per esempio non ho, mettiamola così. Cos'è un estrattore? Un estrattore è una chiave a incastro che va dentro il rocchetto o la ruota libera, che sarebbe in gergo diciamo popolare sarebbe l'ingranaggi dietro, okay, dove c'è la catena, serve per togliere quello dalla ruota. Si usa spesso per quando la ruota è rotta e quindi ti serve comunque sia quel pezzo che è buono, lo puoi riciclare e lo monti su un'altra ruota, oppure per rimettere dei raggi che, certo, sono da quella parte. Altra domanda tecnica, per trovare i buchini dentro nella camera d'aria, no? Io ricordo quando ero più piccolo usavo la bicicletta, sì, perché ora non uso più la bicicletta perché sono troppo lontano, mi dispiace, male. molto male. Le mettevo nell'acqua, tipo, mi piaceva un sacco, mettevo, sì, nell'acqua, ma è quello il metodo giusto? Diciamo che se il buco è grande lo vedi, e comunque sia, se poi invece in alcuni casi è talmente piccolo che non si vede, cioè non te ne accorgi proprio dov'è, sì, il miglior rimedio è senza dubbio la vecchia baciasca con l'acqua, certo, dentro, certo, e ce la affoghi dentro. Esatto. E poi ti puoi anche divertire... da vago con questa cosa delle bollicine. È molto divertente d'inverno, soprattutto con l'acqua ghiaccia. Esatto. Senti, hai mai fatto riparazione alla radio? Riparazione alla radio? Te la butto lì, dai, vieni a farci un corso di riparazione di bicicletta alla radio. Ah, quindi vocale proprio. Vocale, sì. Prendete la chiave del 14 e cercate il bullone. Completo, così, no, è più facile andate al CPA. Il mercoledì pomeriggio dalle 16. No, mercoledì sera. Sì, perché il sottoscritto c'ha il suo lavoro e quindi, certo, lo fa post operato. Fate un lavoro veramente importantissimo, perché i ciclisti urbani che vogliono imparare, soprattutto non è facile trovare posti. Qualcuno disposto a condividere le proprie conoscenze. Effettivamente questa è un po' la cosa brutta di molti professionisti, che tengono per sé, diciamo, i loro segreti invece la cicloficina si basa sulla condivisione. Cioè, io stesso ho imparato con questo metodo. Certo. Poi il fatto di saperlo e il farlo, cioè, sono due cose completamente differenti. Però l'occasione... Diciamo, sì. Cioè, molti, diciamo, all'occorrenza lo sanno fare. Poi, fra l'altro, te sei anche ben introdotto nell'ambiente del ciclismo urbano, perché sei uno dei partecipanti più assidui alla Critical Mass. Sì, esatto. Critical Mass, che appunto abbiamo raccontato quando terminò al CPA, poi l'edizione di novembre è finita alla Polveriera, però... Fra l'altro, l'importante, state preparando una grande Critical Mass, la CIE Mona, giusto? Esatto, confermo. Premetto anche che le cicloofficine popolari sono sempre state molto vicine al gruppo Critical Mass, quindi l'una è complementare dell'altro. Il discorso CIE Mona, sì, come è già stato detto con gli altri ragazzi, è un evento che cade annualmente, nello specifico l'ultimo weekend di maggio, dovrebbe essere il 25, 26, il 27, dove tutti i gruppi Critical Mass, tutte le realtà legate alle cicloofficine popolari convergono in un punto. Quest'anno sarà a Firenze, per dare vita a una grande, grandissima un grande pedalata serpentone collettiva, per diciamo riappropriarsi le strade, oppure far vedere semplicemente che le biciclette ci sono e la gente le vuole usare. Dai, sono previsti numeri non piccoli. No, diciamo si va sull'ordine dei migliaia. Ora, finché era a Roma, sì, esatto. A Roma era effettivamente la più grande, perché diciamo i romani rispondevano in primis all'appello, e quindi la più numerosa a cui ho partecipato erano 15.000. L'ultima, che è stata a Bari, si era comunque più di 2.000. Insomma, sono veramente tanti. Ma infortuni? Non so, alcuni che io sappia non se ne sono verificati. Cioè, non è una gara a eliminazioni. L'autogestione. No, si va molto, molto pacatamente. Siamo molto ordinati, siamo bravi. Ecco. Bene, l'attendiamo veramente con impazienza questa occasione. Sì. E infatti, sempre per la Scimona, riallaccio il discorso alla Scilofficina. Ci saranno anche degli eventi legati alla Brugola Rossa, dove faremo delle aste di biciclette, che comunque sia, quando non viene gente, cioè il meccanico che sta lì, fondamentalmente, se non c'è da aiutare qualcuno magari già sa fare il lavoro, si mette a fare biciclette che poi saranno vendute tramite un'asta data ancora da destinarsi, e che volevamo prima avere un numero sufficiente per fare l'asta, quindi non è che un'asta con due biciclette, magari con una decina, ecco, più. Ecco, naturalmente, cioè, le biciclette vengono poi appunto aggiustate, ricostruite, tutte con pezzi di recupero, recuperati da... Sì, quello scusate, è una caratteristica delle scilofficine polari, che si basano sul riutilizzo, sul riciclo più possibile dei pezzi delle biciclette, quindi tante cose che si trovano nella scilofficina vengono o portate da persone, o le troviamo noi carcasse, abbandonate, no? E le rimettiamo, diciamo, in sesto, perché comunque sia tante cose sono riparabili e magari vengono buttate via dai negozi, che invece che ripararle sostituiscono il pezzo, che è molto più semplice, certo, diciamo. Certo, economico. No, economico no. No, esatto, fa girare l'economia magari. Vabbè, per chi si deve riparare la bicicletta, sì, però però senza dubbio, dal punto di vista ecologico non è buono. Quindi, ok, diciamo sostenibile, vai. Non è sostenibile, ecco. Allora, senti, tu una domanda ti volevo fare, ora non so. Conosci il dio della bicicletta? Il dio della bicicletta? Non lo conosco. Mai sentito nominare. Non è quello che invochi quando cadi? Il Lotus Bike. Lotus Bike? No, non lo conosci. Mai sentito? Vabbè, ho trovato questa Illuminami. Cosa. Ti illumino. Allora, praticamente c'è su una... in Indonesia, sull'isola di Bali, un tempio che si chiama Tempio Pura Madhuve Karang, qualcosa del genere, a Kubutani Saman. Ah, certo. A Kubutani Saman. Kubutani. Lo puoi ripetere, per favore? Kubutani Saman. Secondo nel me hai detto Pura Madhuve a caso. Karang, boh, io non lo so come parlano in Indonesia. Comunque, vabbè, praticamente c'è un basso rilievo all'esterno di questo tempio che rappresenta un omino su una bicicletta. Con, pensate che ti puoi immaginare un tempio nella natura indonesiana, quindi proprio rigogliosa, verdissima, aggressivissima, c'è questo omino a cavallo di una bicicletta con dei motivi floreali al posto delle ruote e della multipla. Ma è una cosa moderna o è una cosa antica? A Bali, un tempio, cosa sarà? Ho capito, ma sulla bici è strano, nel senso... È strano, boh, non lo so, la bici quando è stata inventata? No, vabbè, la bici è stata inventata nel 1800. Era su un carro, però fatto in 2D, e quindi sembra no, bici. va bene, esatto. Ve lo dico, c'è tutto dietro un aneddoto, perché praticamente è un bassorilievo che sta in un tempio, ma è che è stato scolpito da un artista olandese nel 1904. Questo artista era Nieuwer Kamp, che era nato ad Amsterdam nel 1876, soprattutto faceva, insomma, pittura, e era un grande appassionato della cultura orientale. Era stato tantissime volte in India e poi addirittura ha soggiornato per diversi anni sull'isola di Bali, dove si muoveva con questa bicicletta, naturalmente suscitando lo stupore di tutta la popolazione, perché potete immaginare all'inizio del Novecento a Bali, cioè, boh, ti immagini? No, immagino. Incredibile. E di fatto, grande amante della bicicletta, lui lo vedeva come appunto il connubio perfetto, armonioso tra la meccanica e la natura, e gli permetteva di muoversi agilmente nell'isola per andare poi a fare tutte, a cercare gli spunti per tutte le sue opere. Ma quando quindi bucava gli succedeva qualcosa? Lui con la bicicletta. Chi lo sa, se c'era forse una cieloficina a Bale la poteva trovare. Vabbè, comunque poi fra l'altro è un aneddoto, però questo Nieuwerkamp, dopo essere stato a Bali, dopo qualche anno che era a Bali, si è tornato in Europa e ha pensato bene di trasferirsi nel 1926 a Fiesole. Ha acquistato la villa di riposo dei Vescovi e si è piazzato lì. Ha acquistato? L'ha acquistata, sì, l'ha acquistata. È dura in bici, no? Farsi la... Chissà se arrivava in bici fino lassù, a San Domenico. E vabbè, niente, una curiosità, è una villa dove lui l'ha riempito con tutte le sue, i suoi aggeggi orientali, e ogni tanto si può ancora visitare. Ci sono, il comune di Fiesole organizza delle visite non regolari e occasionali, e organizza delle visite, si può andare a vedere la villa di questo, del dio della bicicletta. Preferisco andare a Bali. Sì, è vero, però insomma alla fine resti a portata di mano. Sì, sono d'accordo, era sicuramente magari non era un tipo proprio la nostra portata, però è così, spunti. Insomma, un buon tempone. Sì, sì, sì, sì. Vedeva anche lungo. Ha fatto, sì, anche un rilievo a Fiesa, a qualche parte. Non lo so, questo non te lo so dire. Non si trovano tante notizie al riguardo. Ma va a essere un tempio dei ciclisti. Non lo so. A Fiesa, lo scoprirò. Cercherò di scoprirlo. Bene, Michele. Allora, noi speriamo. Insomma, dai, torna da noi. Io vorrei parlare un giorno della bicipolitana. Della bicipolitana, sì. Per questo dovremmo sentire altri personaggi che sono ben più istruiti. Cos'è? Di me. Cos'è la bicipolitana? La bicipolitana, riassunto in maniera molto spiccia, sperando che non mi vengano dati gli accidenti da chi mi ascolta, sarebbe un progetto che tende a valorizzare le ciclabili già esistenti, perché il problema maggiore delle biciclette, non so se avete sentito, ho visto il servizio di presa diretta, diciamo il punto zero è le infrastrutture, certo. Servono prima di tutto le infrastrutture, certo. Siccome gli amministratori non spendono volentieri nelle infrastrutture, quello che l'associazione, che si chiama Firenze Ciclabile, cerca di fare è valorizzare quelle già esistenti, mettendoci, che ne so, rinnovando la cartellonistica, esatto, insomma, perché bicipolitana fa riferimento alla metropolitana, che ha le linee di colori diversi, quindi ti dà un punto di riferimento per andare da A a B seguendo questa colorazione, quindi semplifica anche l'utilizzo della città, migliora la circolazione delle bici, cioè ci sta tutti meglio, ottimizza, ti dà una panoramica migliore. Che un problema di Firenze è che le ciclabili ci sarebbero anche, solo che sono segnalate male, interrotte, sono a pezzi. Il progetto della bicipolitana tende a riunire queste, a riempire i buchi e a renderle più visibili. C'è stato un progetto, il progetto mi sembra viene da Pescara, che l'hanno già attuato e ha funzionato molto bene. Insomma, è una cosa che permette al comune di fare un bel lavoro spendendo poco. Dobbiamo accontentarci per ora, finché non si smuovono, diciamo, le io non mi accontento, te lo dico. No, mai accontentarsi, mai giusto, accontentarsi, giusto. Diciamo è un inizio. Dai, sì, bene. Caro, ci vediamo alla Brugola Rossa. Io ringrazio Radio Wombat, saluto tutti i radioascoltatori. E lasciamo con un pezzo. Bicycle, bicycle, you are my bicycle. Be your own pets. Well, Eccoci. Che pezzone. Bello, sì. Allora, fighissimo. In punta di pedali come sempre. Grazie, Bricobaldo. Ma figurati, è un piacere. È un plaisir. Grazie, ospiti, fra l'altro. Ma sì, ma certo. Allora, tutto. Che mi racconti? Senti, non so bene come JP riesca a fare con questo microfono, perché è veramente morbido. Ma il buon Joao, cioè, si sa, si fonde col microfono. Sì, diventano tutti. Che salutiamo, assolutamente. Ciao, JP, ci manchi, ci sei mancato. Però attenzione perché ci potrebbero essere new entry. Sorprese. Vediamo se la riconoscete. Ci sono forse sorprese? Vediamo se la riconoscete. La... Chi? Chi sei? Non vogliamo sapere il tuo nome. La rassegna stampa. Lei è la rassegna stampa. No, l'avete già sentita la sua voce. È stata nostra ospite una volta dopo Mondeggi, dopo l'appuntamento di Mondeggi giorni, di novembre. Erano due o tre giorni? Due giorni, 18-19 novembre. E fu a supporto anche durante la due giorni. Fu anche, sì, proprio, sì, decisamente. E venne il lunedì successivo a aiutarci nello spiegare che cosa era successo. Fra l'altro Mondeggi, tenetelo d'occhio Mondeggi, perché ci sono sviluppi. Magari vi faremo avere anche le loro voci, però intanto vi possiamo dire che il famoso bando di interesse che era stato lanciato dal comune, che si era chiuso se non mi sbaglio il 30 novembre, ha riscosso un interesse. Ci sono state ben, se non mi sbaglio, 5 proposte, compresa quella di Mondeggi, alla quale noi teniamo, l'unica alla quale teniamo, mettiamola così. E fra l'altro ieri hanno avuto un'assemblea per spiegare, per insomma confrontarsi con la popolazione, con i cittadini e gli amici e i simpatizzanti, e per decidere anche il da farsi nel futuro prossimo. Sarebbe stato interessante. Hai finito preciso con la fine della canzone di sottofondo. Hai visto? Ma anche questo, cioè, ma erano giorni e me la preparavo. Però me ne toccava comunque mettere un'altra. Dovevi dirlo al regista. Allora, novità delle novità. La rassegna stampa non appartiene più a Fuoco alle Polveri. La rassegna stampa dobbiamo dirlo. C'è stata oggi. Oggi c'è stata all'ora di pranzo la prima rassegna stampa. Esattamente. Tutti i lunedì da mezzogiorno. Aspettate il podcast, tipo. Certo. O le repliche. Le repliche, perché sono tutti i giorni, tipo. No. Allora, attenzione, aspetta. Intanto diciamola con ordine. Che la rassegna stampa ci sarà. Una rassegna stampa settimanale che andrà in diretta tutti i lunedì dalle 12 alle 13, circa 13 e un quarto. Questa rassegna prevede appunto la lettura di alcuni articoli dei quotidiani nazionali e internazionali, o locali o localissimi, e commentata dai nostri fantastici speaker e giornalisti. Vi piace? Assolutamente, da una redazione allargata di tutti i bombati, non direi. Sentirete tante voci alternarsi. Sì, veramente tante voci e anche tante personalità, direi. Senza dubbio. La cosa da ricordare è che il lunedì è la diretta, ma ci sono le repliche il mercoledì e il venerdì nell'ora dei pasti, ossia dalle 12 alle 13 e un quarto e dalle 19 alle 20 e un quarto, insomma circa. Quindi non mancate di ascoltare, di scaricare dal sito Wombat No Blogs, e mi raccomando, insomma, tenetene di conto, perché nessuno fa informazione così dal basso quanto noi siamo così terra terra. Siamo nelle tane dei bombati, per bellissimo. Nelle tane dei bombati. Segna. Dobbiamo imparare un sacco di cose ancora. Bugia, questa era una bugia. No, ragazzi. E invece, siamo... per quello che riguarda la rassegna eventi. La segna eventi invece si stacca da Fuoco alle Polveri, ma è subito dopo, quindi non vi allontanate, non scollegatevi. Non tornate a Facebook appena finito Fuoco alle Polveri. Ma andate a approfondire gli eventi che sentirete. Esatto. Ma se poi vi perdete anche questa, ci sarà il podcast pure della rassegna eventi. Eventi e anche probabilmente le repliche ancora non non in calendario, ma state sempre aggiornati perché nascono nuove trasmissioni giornalmente. Veramente, ma come funghetti. Spuntano. Spuntano come funghi. Come funghi. Sa, anzi, sì, veramente. E se voi, se avete qualcosa da chiederci, dubbi, cose, scriveteci a... Sentiamo. Sentiamo? No, no. Posta Wombat, @insiberia.net. Net. Tranquilli, bravo. Non le leggiamo. No, non è vero, scherzo, no, dai, dai, dai. Ci proviamo a leggerle. No, siamo bravissimi a leggerle. Bene, è arrivato il momento di salutarci, direi. Che peccato. Che peccato. I registi quasi si baciano. Quasi si prendono a testate. E ci vediamo lunedì prossimo alle 16.30, sempre qui su Radio Wombat. Podcast a breve disponibile se volete spammarlo ai vostri amici o alle vostre amiche. E niente, Bricobaldo. Sì, dimmi. È stato bellissimo. È stato come bellissimo sempre. Come sempre, sì. Un saluto a tutti. Restate un abbraccio a in tutti. Ascolto a tra 10 minuti. A tra 10 minuti. Wombat. Wombat. Wombat. Wombat. Go Hal and Paul Vary. Radio Bomba. This is Radio Bomba. La finocchiona. Cosa? I radicali, la finocchiona.